Perché già avere il cellulare più il tonton più altre cose carica troppo poi. Magari in un viaggio poi diventa anche difficile portarselo dietro. È meglio avere tutto in un unico prodotto? Sì, penso proprio di sì. Ha acquistato anche il supporto per comodità? No, no, no. E come fa? Ma io lo uso poco, non mi serve tanto. Molti dicono che lo schermo è un po' piccolo. Boh, rispetto a un satellitare più o meno uguale. Lo utilizza anche per muoversi in città a piedi? Sì. Quindi è più comodo della cartina? Direi proprio di sì.